un vocale registrato camminando sabato scorso a Parma. C'è stato un incontro intitolato, dedicato, centrato sulle scritture complesse, che è una definizione, espressione che dal 2014 rende al meglio le intenzioni e la teoria e il modus operandi sia come autore che come editore di Daniele Poletti e quindi di Diaforia. Una delle migliori entità editoriali, collana e in fondo anche casa editrice, che propone o ripropone testi che possiamo chiamare altrimenti e senza sbagliare, secondo me, sperimentali o di ricerca. Durante questo incontro, nel pomeriggio del sabato, c'è stato un incontro, una relazione estremamente interessante di Luigi Severi, che ha portato all'attenzione di noi tutti. È una realtà che tutto sommato tendiamo così un po' a sottovalutare, cioè la realtà del fatto che queste scritture, chiamiamole, e lui le chiama eslege, fuori legge, se vogliamo anche marginali rispetto al presunto centro che sarebbe la letteratura mainstream, queste scritture non hanno alcun interesse a inquadrarsi, hanno superato ogni qualsiasi sensatezza di fare riferimento a un canone, quindi a una natura verticale, se vogliamo anche verticistica, e di potere dell'organizzazione di ciò che vale e ciò che non vale in letteratura e nelle arti, se vogliamo. Questa orizzontalità delle esperienze, questa complanarità delle molte scritture, delle molte esperienze di scrittura, può essere anche l'indice di una diversa, anzi è di fatto anche l'indice di un diverso approccio etico e politico al reale, che è appunto un approccio di carattere quanto più possibile anticolonialista, antipatriarcale e con caratteri e natura decisamente più in sincrono con quelle che sono le posizioni più avanzate, più razionali, anche umane, del corso storico che stiamo attraversando. A questo punto io mi sono domandato, anzi mi sto domandando adesso, con una riflessione che evidentemente è maturata a me incosciente in queste 48 ore che mi separano dall'aver preso parte a questo incontro, inizio a pensare, mi sto domandando se non sia altrettanto sensato parlare dal punto di vista teorico e delle proposte teoriche che vengono svolte a una complanarità anche delle definizioni o dei tentativi, i nomi dei tentati, insomma, approcci alla definizione di quello che è l'ambito di queste ricerche, se non sia più sensato lasciare, non in sospeso, ma considerarle in parallelo come appunto espressioni legittime tutte, le tre che principalmente vengono usate per riquadrare, ma non imprigionare, queste scritture, cioè sostanzialmente scritture di ricerca, scritture complesse, scritture sperimentali. C'è stato negli anni 50 e 60 un forte dibattito legato appunto a uno sperimentalismo o neosperimentalismo, in qualche maniera appoggiato e per altri versi osteggiato in autori che non fossero lui, dallo stesso Pasolini, e una avanguardia che invece si riconosceva nelle posizioni del gruppo 63 e prima ancora dei Noissimi. Ma le accezioni sono cambiate e nel tempo, anche in base a quel poco che ho potuto ricercare sull'espressione scrittura di ricerca, le modalità di definitorie che si sono evidenziate negli anni sono state soprattutto quelle di uno sperimentalismo legato comunque all'indagine sui limiti del linguaggio, sempre spostati in avanti, allargati per poter far spazio a ciò che è possibile comunque dire e scrivere, a prescindere da quello che una comunità o una tradizione impongono. Mentre l'espressione avanguardia è stata grosso modo, non voglio dire relegata in un margine, ma comunque messa in forse con il progredire dei molti forse che si sono sviluppati, dei molti punti interrogativi che si sono sviluppati negli anni, soprattutto dagli anni 70 e 80 in particolare in avanti, intorno alla possibilità di fruire davvero di grandi narrazioni. E quindi tutto ciò che consegue alle idee di postmoderno e postmodernismo critico, portate avanti in particolare quelle sul postmodernismo critico dal gruppo di Baldus, Biagio Cepollaro e Mariano Baino e le loro voci in primis. Quello che effettivamente sembrerebbe a me plausibile pensare è di continuare a lavorare con le espressioni che invece sembrano avere più margine di operatività dal punto di vista semplicemente della diffusione di questa di ciò che dicono di fatto del letterario, e continuare a lavorare con le tre principali che si sono, sembrerebbe di poter dire che si sono salvate dal naufragio degli anni 80, 90 e inizio 2000, e cioè scritture sperimentali, scritture di ricerca e scritture complesse. Ecco, aggiungendo appunto questa riflessione, che cioè se è vero che nelle diversità la costante è il rifiuto del canone, il rifiuto di una verticalità escludente e una opzione forte per la frequentazione della variazione e della aggressione al linguistico corrente. Ecco, se questi sono i caratteri possibili, o tra i caratteri, molti altri se ne potrebbero elencare, di ciò che possiamo chiamare sperimentazione, ricerca e complessità, ecco, mi sto domandando se non sia il caso di usare alternativamente e di volta in volta, magari calibrando la pertinenza dell'espressione all'oggetto letterario indagato, tutte e tre le appunto le chiamiamole definizioni, perché non sono né categorie né definizioni né nulla di fisso, però sono forse quei modi di circoscrivere il letterario che ci interessa, l'artistico che ci interessa, e distinguerle da quello che non ci interessa, da quello che a noi sembra, noi è un noi plurale e non è un noi plurale maiestatis, appunto perché questa verticalità è stata abolita e abbattuta, ecco, e distinguere da ciò che appunto non è altrettanto produttore di conoscenza, di strutture riutilizzabili per la per tradurre il reale in elementi di conoscibilità linguisticamente orientati. Se questo è vero, se è possibile muoversi in questa direzione e usare questo tipo di espressioni in questo modo, forse possiamo iniziare a pensare appunto a una, oltre che a una democrazia delle scritture, che non vuol dire indistinzione, che non vuol dire mancanza di attenzione per la qualità, assolutamente, anzi forse è proprio il contrario. Oltre a una democrazia delle scritture, anche una democrazia delle definizioni critiche, delle espressioni di indagine, di ciò che è l'indagine sul letterario, di ciò che sono le molte indagini sul letterario, così che possa esistere, oltre a un plurale di scrittura, scritture di ricerca, scritture complesse, scritture sperimentali, anche qualcosa come un'espressione critiche letteraria. Usato in modo non indistinto, non impressionistico, ma nemmeno legato a direttive che appunto pertengono a una fase storica che fortunatamente, anche se lentamente, ci stiamo lasciando alle spalle.